c'è rispetto a un anno fa certamente un atteggiamento più positivo e quindi con maggiore propensione all'acquisto dei titoli di Stato da parte della finanza internazionale in generale e anche delle banche, sia delle banche, come dire, estere in Italia, sia delle banche estere, le case madri all'estero. Questo è un segnale naturalmente assolutamente positivo. Ieri avevamo come nostro ospite il dottor Lavia, che ci ha confermato sostanzialmente questo aspetto. Peraltro, prima di recuperare, prima della crisi, lei sa che l'ammontare dei titoli di Stato detenuti dai non residenti era ben oltre il 50%, oggi siamo scesi al 30%, speriamo di recuperare, ma certamente c'è stata un'inversione di tendenza che è molto positiva e questo naturalmente si riflette anche in una diminuzione dei tassi e in una leggera riduzione degli spread. Temo però che lo spread non potrà fare grandissima strada fino a quando non si, in senso della diminuzione, naturalmente della riduzione, fino a tanto che non si chiarirà in maniera definitiva la situazione politica italiana per l'anno prossimo. Ma ad oggi c'è un maggior interesse rispetto ai titoli italiani di Stato, sì.